animali non esiste alcun diritto. Fight for the animals! Fight! Fight for the animals! Fight! Io non posso più restare indifferente alla violenza sul mondo animale in nome della scienza. Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie vili e co-criminali. Animal liberation, animal liberation, animal liberation world. Milioni di animali torturati ogni giorno per il business della moda, dell'industria e dei suoi boia. Fight for animals! Fight! Fight for animals! Fight! Tuo diritto all'eleganza non può certo prevalere sul diritto di sopravvivenza di un essere vivente. Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie vili e co-criminali. Animal liberation, animal liberation, animal liberation world. Animal liberation world.